Salve a tutti e benvenuti all'ascolto di questa prima puntata di Albatros, un contenitore di musica, parole ed altre amenità per anime libere e inquiete. Albatros è la trasmissione cui va l'ingrato ed arduo compito di tagliare il nastro di Astra Web, questa piccola neonata entità che si è appena affacciato al mondo variegato e variopinto delle radio sul web. Come ho appena detto, Albatros è un contenitore di musica e parole e in questa impostazione trae diretta ispirazione da una ben più famosa trasmissione che va in onda sulle frequenze di Radio Popolare Milano tutte le domeniche e si chiama Camera Sud, della quale sono un affezionato ascoltatore. Per tale motivo non posso non rivolgere un deferente saluto al suo bravo conduttore Eddie Berni. Ma questa impostazione, ossia un contenitore di musica e parole sotto forma di storie raccontate, non è altro che un canovaccio che serve come base di partenza, come trampolino. Infatti, da contenitore che si rispetti, Albatros è aperta a tutti i contributi che vorrete inviarci, siano essi racconti, poesie, opinioni, sfoghi, brani musicali da voi prodotti, perché no? Tutto quanto possa contribuire a creare, a rendere il nostro contenitore una scatola grande e variopinta. A tale proposito, voglio ricordarvi il nostro indirizzo email, utile per farci pervenire per l'appunto i vostri contributi, che è astraweb@email.it. Ai microfoni Davide. Vi terrò compagnia in questo tempo, in questa oretta circa in cui staremo assieme, proponendovi appunto buona musica. Spero che per voi sia buona. E storie. Il brano che apre questa prima puntata di Albatros è un brano che ci è offerto da un giovanotto, un 21enne, proveniente dal Kent, ossia Gran Bretagna. Lui si chiama Robert Harris e di sé dice che amava scrivere canzoni sin dall'età di 18 anni. Considerato che ora ne ha 21, non è da molto tempo che scrive canzoni, però a quanto pare è già molto bravo, tant'è che ha suonato già in parecchie band, ma solo come batterista, prima di convertirsi alla chitarra. A questo giovane ricco di talento andiamo ad ascoltare un brano intitolato Are You Proud? Buon ascolto. Surrounded, you were there to keep me real. Each mistake I have made will make me feel all alone inside my true home. Take the time to persevere, trying to help with the struggle and fear. Thanking you for all that you've done. Nothing can change how I feel about you. Sinking deep under oceans afar, I see the happiness growing above. All that I want is to hear that you're proud. When you watch over me, I feel alive. Are you proud of? My true home, take the time to persevere, trying to help with the struggle and fear. Thanking you for all that you've done. Nothing can change how I feel about you. Sinking deep under oceans afar, I see the happiness growing above. All that I want is to hear that you're proud. When you watch over me, questo era Robert Harris direttamente dal Regno Unito con Are You Proud? Bene, Albatros prosegue con il primo brano da leggere, che è un brano da me scritto dedicato al tema dell'amore. Al momento in cui andiamo in onda ci stiamo avvicinando a grandi passi verso la primavera, anche se forse dal punto di vista meteorologico non è proprio così. Comunque, la primavera è la stagione dedicata all'amore, tradizionalmente. E anche se oramai la festività di San Valentino è trascorsa da un po', questo è un brano che è ambientato a Milano e si svolge nel giorno di San Valentino, giorno in cui si intrecciano più storie, ed è per l'appunto intitolato Rapsodia di San Valentino. San Valentino, si sa, è la festa di chi si vuole bene da giorni, mesi o anche anni, ma anche quella di chi ha dentro di sé un sogno d'amore, ma ancora non sa se riuscirà a realizzarlo. Ed è proprio con una di queste persone che ha inizio la nostra storia. Mauro aveva 28 anni e da circa 2 lavorava come addetto alla vendita nel reparto telefonia di un grande negozio di elettronica in Viale Certosa. Era quello che si dice un bravo ragazzo. Dolce, affabile, riservato. E gli piacevano molto i bambini. Il suo era un lavoro che gli dava molte soddisfazioni, dato che gli consentiva di coniugare il contatto con la gente alla sua grande passione per la tecnologia e di essere molto apprezzato da colleghi e superiori, al punto che da qualche settimana circolavano voci insistenti circa una sua promozione a caporeparto. Da 7 mesi era andato a vivere da solo in un bilocale in un palazzo situato ad un'estremità di via Martinetti ed era cliente fisso del panificio della medesima strada, dove, in un pomeriggio di dicembre, aveva incontrato per la prima volta Erika. Erika aveva 27 anni, lavorava in una compagnia di assicurazioni e nel tempo libero amava praticare aerobica e danza moderna, oltre che leggere romanzi di autori spagnoli contemporanei. Anche lei viveva in via Martinetti, come Mauro, solo che il suo palazzo era all'estremo opposto della strada e anche lei frequentava regolarmente il panificio. Come vi ho già detto, fu proprio facendo la sua piccola spesa che un giorno Mauro si imbatté in Erika e ne rimase da subito colpito. I suoi lunghi e lisci capelli biondi, quella frangetta sbarazzina sulla fronte, quegli occhi azzurri così profondi, quel viso solare che per nessuna ragione al mondo avrebbe avuto bisogno di trucco, gli ricordarono da matti quella ragazzina con la quale a 6 anni giocava a guardie e ladri e per la quale poco più tardi si prese la prima cotta. Ma queste erano ovviamente considerazioni superficiali iniziali che presto lasciarono il posto a qualcosa di più profondo. Infatti, spesa dopo spesa, tra una amichetta ed un pezzo di torta salata, Mauro iniziò a sentirsi conquistato dalla semplicità di Erika, che, insieme al suo modo di relazionarsi con gli altri, lasciava trasparire un forte equilibrio e una grande gioia di vivere. Fu così che iniziò a scegliere il momento in cui scendere a fare compere in maniera studiata e non più casuale, cercando di intuire gli orari e i giorni in cui lei andava in palestra o ne usciva. Un giorno, mi pare con la scusa di chiedere dei consigli su come gustare al meglio la focaccia di Recco, lui riuscì a fare la sua conoscenza e da allora iniziò un rapporto fatto di brevi incontri e piccole chiacchierate che potevano assumere una dimensione un po' più intima quando lui aveva modo di accompagnarla fino al portone di casa. Mauro percepiva chiaramente che per Erika non nutriva una classica e semplice attrazione, ma molto di più. Poteva capirlo dal batticuore fortissimo o dal tremore delle mani che aveva tutte le volte che era in presenza di lei, sensazioni che aveva quasi dimenticato, o dal fatto che, quando si svegliava alla domenica, avrebbe dato non so cosa pur di averla accanto, baciarla dolcemente sulla guancia e poi scendere di soppiatto dal letto per prepararle la colazione. Era quello che si dice una bella cotta, insomma, e Mauro aveva deciso che quel San Valentino poteva essere la giornata giusta per dare una svolta al suo rapporto con Erika, il momento opportuno per dichiararsi apertamente. Per cui prese mezza giornata di permesso dal lavoro, rientrò a casa in tutta fretta e, agguantati carta e penna, scrisse un messaggio. «Dolce Erika, so bene che probabilmente mi considererai un po' matto. Hai tutto il diritto di farlo, dato che in fondo ci frequentiamo da poco e non mi conosci ancora bene. Questo tuttavia non mi impedisce di sapere con chiarezza che tu sei la donna che finora è esistita solo nei miei sogni. Non chiedermi come, ma è così. Dal momento in cui apro gli occhi al mattino, ogni mio pensiero è rivolto a te. E, quando ci sei, ogni battito del mio cuore diventa un coro di angeli che canta solo per te. Tutto ciò che ti chiedo e darmi l'opportunità di esprimerti personalmente i miei sentimenti. Dopodiché potrai decidere se essere per me solo un'amica oppure no. Ti prego, concediamoci questa serata. Io sarò ad aspettarti alle 8, davanti all'ingresso della scuola media. Per il momento accetta questo mio piccolo dono. M. Chiuse la lettera in una busta sulla quale scrisse per Erika F. E poi corse giù, proprio alla panetteria, perché qualcosa gli diceva che lì avrebbe trovato una buona idea. E infatti, non appena entrò, fu subito attratto da delle splendide torte a forma di cuore che facevano bella mostra di sé in vetrina. Chiese a Marika, una delle negozianti, di consegnarne una a domicilio. è possibile farla arrivare a casa di Erika Ferretti, la ragazza che abita nel palazzo in fondo alla strada. Ti ricordi di lei, vero? Ecco, è anche scritto qui sulla busta. Marika lo rassicurò. Certo che la conosco, come no? Non ti preoccupare, sarà fatto entro un'ora, un'oretta e mezza al massimo. Anzi, tra non molto dovrebbe arrivare qui Gigi, quel ragazzo che viene a darci una mano. Mi ha chiamato 10 minuti fa per dirmi che stava arrivando, per cui se ne occuperà lui. E se non dovesse farcela, la consegnerò io stessa. Stai tranquillo. Come previsto, la torta, con annesso messaggio, fu data nelle mani di Gigi, il quale pochi istanti prima aveva detto a Marika di conoscere bene Erika. Si diresse quindi verso il suo palazzo e, giunto lì, prese l'ascensore. Solo che, invece di fermarsi al quarto piano, dove Erika abitava, si fermò al terzo, dove invece abitava Erika Florio, che lui conosceva in quanto era stata compagna di università di sua sorella, e il cui nome su una busta potrebbe appunto essere scritto come Erika F. Suonò alla porta e consegnò la torta a Ramon. Questi era il fidanzato di Erika Florio, spagnolo, di Valladolid per la precisione, ed era un tipo aitante e muscoloso, perennemente abbronzato, con capelli e occhi corvini e mascella squadrata. Inoltre, caratterialmente, era un tipo impulsivo, sanguigno e geloso a livelli inimmaginabili. Era insomma il tipico esempio di amante latino, se capite ciò che intendo. Erika e Ramon vivevano insieme da circa 4 anni, e, per i vicini, erano una coppia alquanto rumorosa. Lo erano di giorno, quando litigavano, il che succedeva quasi sempre per la gelosia di lui, ma lo erano anche durante le loro infuocate notti d'amore. Ma nessuno dei condomini ce l'aveva particolarmente con loro. Anzi, erano guardati con simpatia e anche con un po' di invidia, perché si vedeva che tutto sommato erano una coppia felice. Ramon inizialmente pensò che la torta fosse per lui. Poi, quando prese in mano la busta, il sangue cominciò a ribollirgli nelle vene. Ma fu quando lesse la lettera, che si trasformò letteralmente in una specie di toro infuriato dagli occhi fiammeggianti, del tutto incapace di controllarsi. «Sangre y muerte!» urlò, mentre sferrava un pugno nel muro, provocando una crepa nell'intonaco. Proprio mentre il vulcano Ramon era in piena eruzione, Paolo, suo vecchio amico, stava andando da lui, ed era ormai arrivato sul pianerottolo. Paolo, come Ramon, era appassionato di calcio, e con non poca fatica era riuscito a procurarsi 2 biglietti per la partita di Champions League del mercoledì successivo, che avrebbe visto in campo Milan e Deportivo La Coruña, le loro squadre del cuore. Era di sicuro un'occasione imperdibile per entrambi. Ramon, intanto, continuava a sbraitare. «Maldito hijo de un gran cabrón!» E in quel momento udì ancora il campanello della porta. Aprì e si trovò davanti Paolo, che sventolava i biglietti a mo' di ventaglio, accennando un passo di flamenco. «Olè!» disse con uno dei suoi sorrisi più idioti. Senza neanche rendersi conto di quanto gli stava capitando, il povero Paolo si ritrovò in pochi secondi sdraiato per terra, quasi interamente coperto da panna e pezzi di pan di Spagna, con lividi in vari punti del corpo e con quella che un tempo era stata una torta a forma di cuore spiaccicata sulla testa. Ma non era finita, perché allora, e proprio allora, Anna e il suo bambino Matteo fecero la loro comparsa sul pianerottolo. Ora, dovete sapere che Anna era una madre single e viveva nell'appartamento di fronte a quello di Erika e Ramon. E, particolare non trascurabile, era molto carina e piaceva molto a Paolo, il quale, anche per questa ragione, non perdeva un'occasione per andare a trovare l'amico. E la simpatia fino a quel momento sembrava ricambiata. Paolo, resosi conto di chi avesse di fronte, tentò di assumere l'aria di uno per il quale trovarsi per terra ricoperto di panna è assolutamente normale, e balbettò un saluto. «Ciao, come va?» Anna si limitò a guardarlo, come si farebbe con un sacco dell'immondizia, e strattonò per una mano suo figlio, che lo fissava con la bocca semiaperta. «Vieni, Matteo, andiamo!» Paolo sentì il rumore secco di una porta che si chiudeva, e capì che non avrebbe più rivisto Anna. Poi, a coronamento di tutto ciò, lo sguardo gli cadde sulla sua mano destra, che ancora stringeva i biglietti per la partita, costati tanta fatica ridotti ormai a due fazzolettini alla panna, e disse a se stesso che non avrebbe mai più dovuto rivolgere la parola a quel maledetto caprone iberico. Intorno alle 14, il treno Intercity proveniente da Palermo era giunto in stazione centrale con circa 5 minuti di ritardo. Da quel convoglio era sceso Minolo Martire, detto Ucurtu, ovviamente per via della sua statura. Fattore questo che non gli impediva di essere il temuto e rispettato capo di una delle più efficienti organizzazioni di riciclaggio e ricettazione del capoluogo siciliano. Era venuto a Milano perché doveva incontrare un tale che una settimana prima aveva osato rifilargli un assegno scoperto in cambio di merce proveniente dall'estero. Si trattava di uno sgarro troppo grande per essere risolto dai suoi segretari. Lui stesso doveva dare a quel pezzente una lezione che non avrebbe più dimenticato. Del tipo in questione aveva una descrizione sommaria: alto, occhi e capelli neri, fisico robusto. Nella tasca del cappotto aveva un bigliettino con l'indirizzo del luogo dell'appuntamento che i suoi collaboratori gli avevano fissato. Com'era il nome della via? Martelli? No, Martini? Ah, ecco, Martinetti. Quel giorno anche il tempo sembrava voler fare un regalo a tutti gli innamorati. E infatti si trattava di un giorno insolitamente tiepido e soleggiato. Ma il Lomartire credeva che sarebbe stato accolto da una temperatura ben più rigida, per cui indossava i suoi abiti più pesanti. Giunto al parcheggio dei taxi, era già accaldato e sudaticcio, e questo contribuiva ad accrescere il suo astio verso il resto del genere umano. Si fermò, si guardò intorno con aria disgustata e, prima di imbarcarsi su un taxi, rivolse un dolce apprezzamento verso il posto in cui era appena giunto. Che città della minchia! Erano circa le 17:30 quando Giulia suonò alla porta di Mauro. Giulia abitava al piano di sotto, aveva 11 anni e frequentava la prima media. Mauro aveva un vero debole per quella ragazzina così spontanea che era diventata una sorta di sorellina adottiva e spesso le dava una mano in matematica e scienze. Quando la aprì, la salutò cordialmente. «Ciao, bellissima, che mi racconti?» «Guarda, un disastro. Lo so che ti stresso sempre, ma ho bisogno ancora del tuo aiuto. Domani ho l'interrogazione di fisica e la prof è stata una vera frana a spiegarci le forze, l'accelerazione, il piano inclinato e tutte quelle robe lì. Avresti un po' di tempo per me?» «Ma certo. Magari prima possiamo fare merenda. Che ne dici?» Era ormai calata l'oscurità, quando Ramon si diresse verso l'ingresso della scuola media di via Martinetti, deciso a tirare il collo a quello scarafaggio che osava tampinare in maniera così sfacciata la sua ragazza. Giunto sul posto, vide un uomo non molto alto, con un pesante cappotto e una valigetta in mano, che sembrava aspettare qualcuno. Minolo Martire guardò Ramon con aria torba, per nulla intimorito dalla sua prestanza fisica, e si convinse che quello era il suo uomo. Ramon fece il primo passo. «Mi scusi, aspetta per caso qualcuno?» «Sì, e allora?» «Posso chiederle se il suo nome comincia con M?» «Giochiamo agli indovinelli ora. Ci sentiamo per caso spiritosi, eh?» Non vi sto a raccontare quello che successe nei minuti che seguirono in quello che in origine doveva essere il luogo di un appuntamento galante. Vi basti sapere che nel giro di pochissimo il Lomartire, coperto da escoriazioni e contusioni, sporco e con gli abiti strappati, correva a perdifiato senza una meta precisa. Giunse in piazzale Siena, dove prese al volo un taxi, peraltro rischiando di venirne travolto. Mentre andava via, guardava dal finestrino e pensava che sarebbe sì ritornato per compiere quella punizione, ma non sapeva quando e soprattutto non da solo. Mentre il tassista lo guardava perplesso dallo specchietto retrovisore, pensando che oramai poteva dire di aver visto tutto, lui proferì un pensiero a mezza voce. Che città della minchia! Intanto Ramon, esausto, riprese la via di casa, non senza rendersi conto di provare una strana sensazione. Si sentiva come svuotato, e di colpo aveva perso la voglia di fare una delle sue solite scenate di gelosia alla fidanzata. L'unica cosa che desiderava sul serio era semplicemente stare bene con lei e dimostrarle quanto per lui fosse importante, come forse mai aveva fatto prima d'allora. Iniziò a vagare, sperando che da qualche parte ci fosse un fioraio ancora aperto. Mauro e Giulia erano quasi giunti al termine del loro faticoso percorso, fatto di piani inclinati, forze di attrito, accelerazioni di gravità e quant'altro. Ma nonostante tutto, questo era stato per lui piacevole quasi come un gioco. Mentre Giulia, notevolmente rincuorata, richiudeva il suo libro, lui sollevò lo sguardo verso l'orologio sulla scrivania, che segnava le 20:45, e dopo un attimo sentì il sangue gelargli nelle vene. Sì, perché si era reso conto che era stato così piacevolmente immerso nei problemi della fisica da aver completamente dimenticato l'appuntamento con la sua Erika, una cosa così a lungo attesa. No, non poteva essere successo. Non a lui, non quella sera. Ma come era potuto accadere? Eppure era successo veramente. Sgomento, terrore e ansia. Stette a fissare l'orologio per minuti, pallido, senza quasi respirare. Giulia, vedendolo, si preoccupò. «Mau, che hai? Ti senti bene? Sei strano?» «Sì, sì, tutto bene, sto bene, stavo solo pensando ad una cosa che devo fare domani.» «Vabbè, senti, perché non scendi a cena da noi?» «No, ti ringrazio, non ho molta fame.» «E dai, stasera mia mamma ha fatto la pizza e il tiramisù.» «E va bene, ci sto.» Scendendo con Giulia le due rampe di scale, Mauro aveva l'aria di un condannato a morte avviato verso il luogo dell'esecuzione. L'unico pensiero che riusciva ad anestetizzarlo era il fatto che aveva firmato il messaggio per Erika solo con la sua iniziale, e questo forse poteva averlo fatto restare in incognito. Ma, d'altra parte, Erika era molto intelligente, e di certo aveva capito che l'autore era lui. In quel momento, desiderava solo trovare qualcuno che gli desse conforto e lo aiutasse a recuperare una situazione così disperata. Entrarono in casa. Dall'ingresso, Mauro vide che Claudia, la madre di Giulia, era in cucina e parlava con qualcuno. Si interruppe per salutarlo. «Ciao Mauro, che piacere vederti!» Guardando dall'ingresso, vide le gambe di una donna seduta in cucina e, accanto a lei, un borsone dall'aria molto familiare. Si fermò e, dalla voce, riconobbe che quella donna seduta era proprio lei, Erika. Non osava entrare. La vergogna era troppo grande, ma Claudia non gli lasciò scelta. «Dai, Mauro, cosa fai lì? Vieni a bere qualcosa con noi!» Facendo appello a tutte le sue forze, varcò la soglia, pensando che se avesse avuto la testa infilata in una ghigliottina si sarebbe sentito probabilmente meglio. Ma, nonostante tutto, Erika, più bella che mai e con i capelli profumati di shampoo, lo accolse con uno dei suoi sorrisi più luminosi. «Ehi là, professore, come stai?» Pazzesco. Sembrava quasi che non fosse successo nulla. Ma probabilmente Erika stava semplicemente affrontando la situazione con molta nonchalance. Eppure non aveva l'aria di una appena bidonata ad un appuntamento. Ma forse aveva deciso di non andarci. Mauro prese tempo per sondare ancora il terreno. «Sei stata in palestra oggi?» «Sì, siamo rientrate da poco, ma forse non lo sapevi che io e Claudia frequentiamo la stessa palestra?» «No, in effetti ero un po' sorpreso di vederti qui.» Claudia a quel punto intervenne. «Ragazzi, vi fermate a cena? Oggi ho fatto un esperimento di pizza, se vi fidate.» «Ti ringrazio, Cla», disse Erika. «Voglio scappare a casa perché ho ancora un paio di cosine da sistemare. Magari è un'altra sera di questa settimana, eh?» Poi si rivolse a Mauro. «Senti, passando dal panificio ho preso dei ravioli che sembrano essere niente male. Che ne dici di venire da me a provarli? Poi, se hai voglia, possiamo guardarci un film.» Mauro aveva il cuore al posto delle tonsille. Una simile valanga di emozioni contrastanti rischiava di procurargli un infarto. Accettò l'invito e con Erika abbandonò la casa di Claudia. Oramai aveva rinunciato a capire cosa fosse o non fosse successo. Non si poneva più domande e preferiva investire le sue energie per il momento presente, in quella che sembrava essere proprio la sua serata. Sì, ne era sempre più convinto, perché nel breve tragitto percepì chiaramente che Erika era perfettamente a suo agio e rilassata e non aveva dentro di sé alcun rospo da tirare fuori. Che strano, proprio Giulia, quella ragazzina che inconsapevolmente aveva contribuito a causare un disastro, aveva fatto cambiare tutto in maniera così radicale. Sì, probabilmente quella sarebbe stata proprio la sua, anzi, la loro serata. E prova ne fu il fatto che, mentre erano in ascensore, lei spontaneamente intrecciò le sue dita a quelle di lui, sorridendogli con aria complice. E lui si sentì sull'ascensore diretto verso il paradiso. Anche in quel San Valentino, la notte aveva steso il suo benevolo mantello su Milano, come a voler benedire tutte le unioni, presenti e future. C'era nell'aria qualcosa che rendeva quella serata particolarmente serena, e tutti sembravano aver accantonato le ansie quotidiane per tornare ad accarezzare qualcosa in fondo al cuore, quella che un noto gruppo rock definì tempo fa come quella piccola pazza cosa chiamata amore. Proprio tutti? Beh, non esattamente. Già, perché nella sala d'attesa della stazione centrale, due poliziotti si avvicinavano con aria minacciosa ad un ometto lacero e pesto, il quale, prima di essere invitato a seguirli, alzò gli occhi al cielo e fece una considerazione. Che città della minchia! Ma questa l'avevamo già sentita, non è vero? Te amo, es solo el dolor. Puedo vivir con el amor atado durante tan infinitos años, o es solo el latir que llora. Me aferro a tu corazón, tiemblo al pensar en tu sonrisa cruel que me hizo tanto daño al sentenciar un adiós eterno. Puedo con pasión cantar, puedo alucinar quizá, o derretirme de deseo en un espejismo que se burla de mí. Ay, el amor es un fantasma que desgarra mi destino, que se niega a morir. Amor es un fantasma que da vueltas en el mundo y no quiere ya partir, es mi herida y cicatriz. Te quiero, es solo pasión. Puedo seguir con el sabor ayer durante tantas lunas, o es solo al latir que llora. Puedo regresar a ti, puedo florecer aún más, o marchitarme de dolor, derrumbarme o morirme por ti. Fantasma que desgarra mi destino, que se niega a morir, que se niega a morir. Ay, el amor es un fantasma, un espectro de mi alma que no quiere ya salir. Ay, el amor es un fantasma que da vueltas en el mundo y no quiere ya partir, es mi herida y cicatriz. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. E questa era Cherie, una giovane ragazza che viene dal Guatemala e ci ha fatto appena ascoltare un brano intitolato El amor es un fantasma, brano che tra l'altro è stato per 26 settimane consecutive nella top 40 guatemalteca. Non male, direi, per un brano di esordio. Mentre il racconto che ha preceduto la canzone, da me scritto, si intitolava Rapsodia di San Valentino. E io volevo approfittare di questa piccola parentesi dedicata all'amore per rivolgere un invito a tutti voi che siete in ascolto. Un invito a raccontare le vostre storie d'amore che, proprio come l'apparizione di un fantasma, non sono durate che pochi secondi, magari il tempo di scambiare uno sguardo. Vi è mai capitato di incrociare lo sguardo di qualcuno, magari per strada, in autobus, in metropolitana, sugli scalini dell'università o che so io, e provare subito una sensazione di affinità, anche se chi state guardando è una persona che non conoscete affatto? E vi è mai capitato di continuare a pensare a quella tale persona che avete incontrato e desiderare di reincontrarla ancora, anche se sapete che sarà molto difficile? Raccontateci pure le vostre storie d'amore di pochi secondi scrivendo una email a astraweb@email.it. Bene, nell'attesa dei vostri contributi, facciamo una nuova puntata negli Stati Uniti, dove troviamo ad attenderci un artista chiamato Patrick Eckert, che ci propone un brano intitolato Down by One. Everybody talks, laughs, and barks at your shortcomings. At each aching moment, all she does is walk by you acting like a fool. Down by two, she's not. Something in your throat now. You've got something. Everybody talks, laughs, and barks at your shortcoming. She's so photographic, a vision emblazed on your mind. She laughs, but it's plastic. A gentle reminder of what you left behind. No one wants you, and you feel like we do. Well, it's okay, 'cause she's just the thing. Let it fall, love the pleasure she brings. Eternal spring. Down by one, she's down by one, and no one makes you feel. Oh, E con questo gradevolissimo brano di Patrick Eckhart intitolato Down by One termina questa prima puntata di Albatros, trasmissione in web di questa nuova radio che si chiama per l'appunto Astra Web. Io sono Davide e spero vivamente che tutto quello che è stato trasmesso sia stato di vostro gradimento, così come spero di avervi ancora all'ascolto di questa trasmissione in web. Prima di salutarvi, voglio però ricordarvi due cose. In primo luogo, il nostro indirizzo email, che serve per interagire con noi. Mi raccomando, scriveteci numerosi a astraweb@email.it. E voglio ricordarvi ancora che tutti i brani che abbiamo trasmesso sono stati estratti dal sito www.garageband.com. Quindi, collegandovi a questo sito, potrete leggere le schede degli artisti, ascoltare ancora questi brani, scaricarli e anche dare loro un voto. E così facendo anche contribuire a far diventare questi brani le smash hits del prossimo futuro. Bene, è veramente tutto. Io vi saluto e spero di avervi ancora all'ascolto di Albatros. Ciao!